Incontri di Gianfranco Fabi. Con questa musica, che penso che molti di voi non conoscono, iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica. Al nostro office ve lo presenterò tra poco, perché prima ci spiega un po' perché ha scelto questa musica e che cos'è questa musica. Beh, questa musica è un'orchestra. È un'orchestra composta da 8 strumenti che simbolizzano un po' i nostri 8 marchi con i quali comunichiamo con il mercato. Quindi è una musica composta da voi. Allora vi presento subito Stefan Rubner, avete capito anche un po' dall'accento che è altoatesino, ha un'azienda che ha sede a Kins, in Valpusteria, è un'azienda familiare perché l'azienda si chiama Rubner. E allora ci spieghi un po' come è nata questa azienda e come ha preso in mano questa azienda, come è nata? Beh, l'azienda è nata nel 1926. È stata fondata ancora da mio nonno, c'è una bella storia dietro, e però è cresciuta veramente all'inizio degli anni 60, quando i miei zii hanno preso in mano la ditta e l'hanno, diciamo, costruita o l'hanno sviluppata. Ecco, Rubner Marco è conosciuto, comunque spieghiamolo, è un'azienda specializzata nella lavorazione del legno. Costruzione e lavorazione del legno, giusto. Quindi è un'azienda leader in Europa, leader in Italia ovviamente, in questo settore. Qual è il prodotto di punta della vostra azienda? Ma non direi che c'è un prodotto di punta. Noi lavoriamo sempre nel settore del legno e della costruzione con il legno. Ci sono diverse aziende, abbiamo 4 settori strategici, che è l'industria del legno, dove facciamo i semilavorati, e ci sono 4 aziende col brand Rubner, con descrizione di attività che sono la Holzbau, praticamente il settore della costruzione di grandi costruzioni in legno lamellare, poi c'è la House, praticamente costruzione di case private, la Objektbau, che è il general contractor del gruppo, dove facciamo anche grandi costruzioni chiavi in mano, e il settore delle porte. Ecco, quindi non solo quelle case prefabbricate, quelle villette prefabbricate che sono un po' un marchio conosciuto, ma anche grandi costruzioni, palazzetti dello sport per esempio, cose di altro tipo. Naturalmente anche fabbricati per l'industria per esempio, o anche sì, palazzetti per lo sport, piscine, chiese abbiamo fatto praticamente un po' tutto quello che si può fare naturalmente anche in legno. Avete fatto qualcosa negli ultimi mesi per il terremoto in Emilia? Sì, certamente abbiamo fatto una scuola del bando scuole, dove sono state realizzate 28 scuole, noi ne abbiamo fatto una in 40 giorni lavorativi, abbiamo costruito una scuola per 11 unità. Completamente in legno. Completamente in legno, naturalmente chiave in mano, tutto. E naturalmente antisismica. Antisismica, chiaro, come ecco, tutte le nostre costruzioni. Il legno sembra un po' così a prima vista un prodotto un po' tradizionale, forse un po' maturo, magari un po' sorpassato. Di fronte alla tecnologia, ai nuovi materiali, alla grande capacità innovativa che ci può essere anche nel settore dell'edilizia, come vi difendete, come attaccate questo fatto di considerare il legno forse superato? No, io lo vedo proprio diversamente. Lo era forse un po' il legno nell'ultimo secolo, era forse il materiale non più moderno, non si era mai sviluppato, come per esempio il cemento oppure il ferro, che 150 o 100 anni fa hanno avuto un sviluppo grandioso, però il legno questo sviluppo l'ha fatto negli ultimi 30 anni. Quindi c'è stata molta innovazione proprio nel uso del legno. Moltissima. Ma cosa vuol dire innovare per usare il legno? Come si innova? Il legno è legno? No, il legno naturalmente è il legno, però diciamo una trentina di anni fa taglio del legno ha avuto la sua innovazione. Il legno è diventato un prodotto di massa, però ogni singola tavola naturalmente ha di nuovo i suoi difetti oppure anche i suoi pregi, e così ogni tavola è diversa dall'altra. Con lo sviluppo della piallatura oppure delle colle negli ultimi 30 anni oppure l'essiccazione artificiale, abbiamo trovato dei metodi di fare di un prodotto inomogeno un prodotto omogeneo, calcolabile, omogeneo, sì. Calcolabile anche staticamente, e farne un prodotto che arriva fino a dimensioni di una lunghezza per esempio di 50 metri. Quindi che può avere le stesse caratteristiche di un prodotto di un'altra, per esempio di acciaio o di metallo. Oppure meglio. Ecco, indubbiamente lei difende la sua produzione ed è molto giusto questo. Ecco, quindi molto meglio perché può essere magari più leggero, più... Giusto. La leggerezza per esempio è un pregio significativo, oppure la duttilità. Se vediamo l'antisismica. Ecco, voi avete sede a Kins, in Valpusteria, dicevamo, in mezzo ai boschi. Come vi approvvigionate di una materia prima? È difficile trovare la materia prima giusta? No, non è tanto difficile. In Europa ci sono abbastanza boschi che vengono sfruttati molto bene e anche in modo ecosostenibile e tutto quanto. E lì nelle Alpi, oppure anche Germania, Svezia, anche la Russia europea, c'è un sacco di legname che può essere sfruttato molto bene. Quali sono i vostri mercati di approvvigionamento principali? Tutti questi. Ho detto prima. E i mercati invece di sbocco, dove vendete meglio i vostri prodotti? Naturalmente l'Italia è un nostro mercato storico, siamo nati qui e questo è rimasto il nostro mercato storico, però naturalmente vendiamo in tutta Europa. Certi prodotti pure fuori anche dall'Europa, stiamo cercando di prendere piede negli Stati Uniti o in Giappone, dei mercati dove... Negli Stati Uniti c'è molta abitudine a costruire in legno probabilmente. In Giappone? Anche negli Stati Uniti, certo. Almeno non certo a New York o a Manhattan, ma nelle periferie o anche appunto nelle piccole città delle pianure, molte case sono già adesso in legno, non vostre ovviamente, quindi vorrete entrare in questo mercato? Non con le case, il prodotto degli Stati Uniti non è proprio il nostro focus, lì vendiamo dei semilavorati. Quindi che possono poi essere utilizzati da aziende del posto. Sì. Quindi questa strategia di internazionalizzazione, quali successi maggiori vi ha dato? Qual è la sua maggiore soddisfazione nel portare avanti questa indicazione di andare sui mercati esteri? Soprattutto questi mercati che stiamo aprendo adesso in Europa. Siamo riusciti ad entrare molto bene in Francia negli ultimi 3 anni. Lì abbiamo fondato la Rubner SAS in Francia e lì siamo stati capaci di prendere dei lavori molto importanti, siccome lì la cultura della costruzione in legno non c'è o ce n'è poca, però c'è una grande cultura della costruzione in sé, però ci hanno aperto anche le porte, che non è facile in Francia, per entrare, e adesso stiamo facendo dei lavori molto importanti. Facciamo per esempio il primo edificio di 7 piani in Francia che sorgerà a Parigi. Quindi un edificio di 7 piani con le strutture essenziali in legno, non più in cemento armato, oppure si accoppiano le cose? No? Si accoppiano, certo, ci sono dei vantaggi naturalmente anche in tutti gli altri materiali, e non è che noi vogliamo costruire tutto il mondo in legno domani, però mettendo insieme le qualità dei diversi prodotti, sicuramente una parte del legno, delle costruzioni in futuro verranno fatte in legno. Avete pensato alla Cina o è un po' troppo ambizioso e prematuro? Abbiamo già fornito dei travi lamellari in Cina e stiamo proprio adesso facendo un fabbricato in Cina con i nostri travi lamellari, che sarà una fabbrica, praticamente un capannone in Cina. Thank you. Buongiorno e ancora buon pomeriggio con questo brano musicale eseguito da un'orchestra della Valpusteria e composto da esponenti locali della Valpusteria per il gruppo industriale Rubner. E questo pomeriggio abbiamo con noi Stefan Rubner, che è giovane presidente di questa azienda familiare. Ci spiegava, nata all'inizio del Novecento e poi si è sviluppata soprattutto negli ultimi anni, diventando leader europea nel campo delle costruzioni in legno. Parlavamo alla fine della prima parte della proiezione internazionale, della presenza molto forte in Europa ma anche negli Stati Uniti, e ci spiegava Stefan Rubner anche in Cina. Ecco, quali sono le difficoltà maggiori che incontra un'impresa italiana nell'andare sui mercati esteri? Difficoltà magari burocratiche, amministrative, doganali, fiscali, creditizie? Qual è il problema maggiore che voi incontrate, che se potesse avere la bacchetta magica dice cerchiamo di eliminarlo? Stefan Rubner. Sicuramente il costo, naturalmente, come azienda italiana in questo momento, come paragone, se ci paragoniamo con l'Austria e la Germania, è un fattore molto importante. Cioè i costi aziendali, costi del lavoro che purtroppo sono più alti qui in Italia, e pure anche i costi dell'energia. Ci sono diverse cose, oppure anche la burocrazia un po'. Ecco, voi siete, dicevamo, a Kings, in Valpusteria, in Alto Adige, una regione autonoma. Questo vi dà qualche privilegio in un certo senso? Ma direi più un privilegio sul mercato italiano. Credo che abbiamo la credibilità di usare il legno, di fare certe costruzioni anche con una certa serietà. Questo lo sfruttiamo sicuramente sul mercato italiano, che anche sui mercati austriaci tedeschi, dove conoscono la qualità dell'Alto Adige. Fuori da questi paesi non è proprio una credibilità altoatesina che stiamo vendendo. Lì stiamo un po' vendendo la nostra credibilità di un prodotto che viene dalle Alpi. Quindi è un prodotto tipico in un certo senso, che ha anche una sua qualità di immagine, provenire appunto dall'Alto Adige. In Italia conta ancora, in senso positivo. Fino a poco tempo fa contava ancora, sì. Ecco, negli ultimi anni la crisi economica, questa crisi che dal 2009 ha toccato un po' tutti, come vi ha colpito? Siete riusciti a trovare dei meccanismi di crescita anche nei momenti di crisi, di difficoltà? Sì, allora siamo riusciti a crescere ogni anno, anche durante la crisi. Nonostante anche noi abbiamo avuto i nostri problemi con la crisi economica, certamente i nostri clienti che hanno meno possibilità di avere il mutuo, per esempio, oppure i nostri clienti anche del settore industriale che pagano più difficilmente. Diciamo, la crisi ce l'abbiamo, forse abbiamo la fortuna che stiamo lavorando con una materia che è in moda, che è in grande crescita, che ha avuto questi spunti, questi nuovi spunti innovativi, ecco, e con i quali riusciamo a fare mercato ancora oggi. Si parla molto spesso in questo periodo di green economy, di economia verde, di economia ecologica, di attenzione all'ambiente. Voi vi sentite parte della green economy, oppure qualcuno può rimproverarvi che sfruttate un po' i boschi per produrre legno? Non sfruttiamo i boschi. I boschi ci sono naturalmente per averli il fine settimana, per goderceli. Però durante la settimana anche i boschi sono solo una fonte di energia, sono fonte di agricoltura e devono essere sfruttati bene per rendere qualcosa. È un terreno agricolo. Certo. Beh, è un terreno anche che viene sfruttato soprattutto dalle vostre parti, basta pensare a Plan de Corone sopra Brunico, anche come pista da sci. Magari fare una pista da sci vi procura un po' di materia prima. Certo, però dai nostri boschi in Europa possono essere tolte ancora tante piante in più senza riducendo la massa lignosa che c'è nei boschi. Anche perché gli alberi hanno il pregio di rinascere, di ricrescere, anche se ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza. I nostri boschi sono la batteria più efficiente e più naturale che ci sia. È solo energia solare che è praticamente conservata finché la togliamo e la sfruttiamo. Però bisogna usarli in maniera appunto intelligente, cercando poi di... Assolutamente, prima dobbiamo usarli materialmente e dopo energicamente. Ecco, lei ha anche studiato prima a Bolzano, poi in Germania, poi ha anche fatto l'imprenditore in Germania e poi è tornato appunto nella sede della società in Valpusteria. Quali sono le differenze maggiori anche a livello, diciamo così, sociale, di vita quotidiana? Certamente l'Alto Adige è un pezzo di Germania o di mondo tedesco in Italia, però comunque voi siete comunque italiani. Quali sono le differenze maggiori che magari ha riscontrato nelle scuole e nelle imprese tra questi due mondi? Ma direi che nelle scuole c'era poca differenza, quella non me la o meglio forse non me la ricordo la differenza. Nella vita imprenditoriale si vede e si vede ancora oggi molto diversamente. Noi abbiamo aziende tra il sud Italia e nord della Germania, però devo dire che anche noi come altoatesini abbiamo dovuto imparare di fare gli imprenditori in Germania. Non è che era più facile lì che nel sud dell'Italia. Ecco, avete anche uno stabilimento nel sud Italia? Sì. Vicino ad Avellino abbiamo un stabilimento dove facciamo travi lamellari. E siete soddisfatti di questo? Molto. C'è forse un pregiudizio sul nord, su quanto si possa... Assolutamente, allora noi non possiamo lamentarci. Siete presenti dal nord della Germania al sud dell'Italia, possiamo dire un'impresa multieuropea, se non multinazionale ancora. Direi bene. Ecco, in questa prospettiva quali sono i progetti? Voi avete riorganizzato il gruppo, mi diceva all'inizio, quali strategie questa riorganizzazione? Quali sono i punti di forza di questa riorganizzazione? Beh, il punto di forza era che noi prima avevamo tante aziende che comunicavano con un loro marchio, e così avevamo una quindicina di marchi con i quali comunicavamo con il mercato. Adesso abbiamo ridotto i marchi a 5, praticamente 4 che sono marchi singoli con il sostegno del marchio Rubner, e il marchio Rubner che si divide in 4 settori dove comunichiamo col marchio Rubner e la descrizione dell'attività. Quindi attività diverse, sempre basate sul legno, ma case, materiali per l'edilizia e anche accessori. Quali sono i punti di forza, i punti maggiori di forza dell'azienda? Allora, in tutti i settori abbiamo dei punti di forza. Allora, noi puntiamo sempre di fare anche il nostro lavoro molto bene e di fare il leader in un certo settore oppure in un certo mercato. Così ognuno dei nostri marchi è un leader nel suo settore. In qualche settore, in quello per esempio dell'industria del legno, abbiamo due marchi, Nordpan e Nordlam, con i quali siamo leader europei. Ma a fianco all'attività industriale state affiancando anche un'attività, così dire, un po' filantropica. Avete fondato una fondazione, mi sembra, per attività sociali. Sì, seguendo un po' anche la via soprattutto dello zio, che era presidente dell'azienda per tanti anni e che nella sua vita ha fatto tanto anche di molto bene, però non ne parlava mai. Noi abbiamo, dopo la sua morte, abbiamo fondato la fondazione Hermann Rubner, e dove seguiamo un po' questa strada e cerchiamo di fare del bene sociale e culturale. Soprattutto all'interno del territorio dove siete, sì. Sì, soprattutto in Alto Adige, però soprattutto anche lì dove ci sono le nostre aziende. Ecco, quindi una presenza, direi, complessiva all'interno del territorio. Per, diciamo, andiamo verso la conclusione, guardando un po' in avanti, voi siete un'azienda familiare, avete intenzione di quotarvi in borsa prima o poi? Non per il momento, no. Non abbiamo il tempo di pensare su queste cose. Andate d'accordo all'interno della famiglia? Non sempre, però siamo 4 membri della famiglia che abbiamo naturalmente anche le nostre discussioni, però di solito anche positive. anche positivo, guardando un po' in avanti. Allora, diciamo, per concludere, un obiettivo direi non tanto di carattere industriale o finanziario, ma di carattere, così direi, anche personale ed umano. Lei quale obiettivo si pone di fronte a sé, oltre che quello di far crescere ovviamente quantitativamente l'azienda, ma dal punto di vista della qualità della vita, qual è il suo obiettivo? Avendo anche una casa e vivendo lì dove altri fanno le ferie, non è che mi manca tanto. Siamo lì in Alto Adige, in una zona molto molto bella, e perciò a me mi piacerebbe far crescere proprio l'azienda, potendo però rimanere lì e tenere il centro delle nostre attività proprio in Valpusteria. Questo è già un impegno abbastanza grande in questi tempi, anche di rimanere fuori, diciamo, con un headquarter in un paesino con 800 abitanti, però credo che possiamo lavorare bene ancora su questa via, e spero di poter attrarre tanti collaboratori di alto livello anche in un paesino piccolo. Beh, insomma, già adesso attraete, peraltro è cominciata la storia sciistica, e tra la Valbadia e Pra de Corones c'è solo l'imbarazzo della scelta. È certamente bello stare da quelle parti e poter decidere se un giorno non c'è tanto bel tempo di non andare a sciare, di andare a lavorare, oppure di andare a sciare. Non sono arrivato ancora a quel punto, però ce la metto tutta. Grazie mille a Stefan Rubner di essere stato con noi questa domenica pomeriggio, così come ringrazio Paolo Corleoni in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica.